La solidarietà per Cole e la sua famiglia vince tutte le divisioni tra i partiti e le frontiere nazionali. Per l'ex cancelliere, dal canto suo, la tragedia non arriva inaspettata. Mi ha messo la credere di sì. Ne avevamo parlato. Dovrebbe nachdachte, das wusste ich. Sapevo che ci stava pensando. Non intendo aggiungere altro. Un ringraziamento ad Antonella Migliaccio, Manuel Guerrini, in redazione, Alessandro Chiappini, Valerio Rocchetti, in regia. A domani.